pensando che ancora oggi i motori di ricerca sviluppano molto del traffico e comunque dipendiamo molto dai motori di ricerca, in particolar modo da Google, potremmo quasi dire che per farci trovare ci conviene attualmente scrivere piuttosto che far video, anche se quasi tutti vogliono fare video. Questo è talmente vero che ci sono i cosiddetti content farm, che pagano persone per scrivere articoli testuali che contornano un video, che poi è il contenuto che vogliono promuovere, e sviliscono simultaneamente sia il video che il testo, e in modo abbastanza controproducente. Ci sono stati anche recentemente articoli che ne parlavano. E questo approccio, secondo DotSub, non è quello corretto.